la parola a Marucelli di Asti Alessandria. Intervengo per sventolare la bandiera Anteas. Grazie, l'abbiamo vista. E parto dicendo che è bellissimo il video, c'è stato uno spazio significativo per il volontariato. Non voglio sovrapporre, perché l'Anteas è figlia della FNP e non la CIS, talvolta si ricorda anche dell'Anteas e mettono nelle emozioni finali. Basta che ci sia un pensionato che sia nella commissione emozioni, altrimenti. Direi che forse il volontariato è l'unica istituzione sociale che gode ancora presso l'opinione pubblica di un largo consenso ed una sincera stima, perché nel comune sentire evoca qualcosa di pulito, qualcosa di spontaneo e di libero. È un rispetto. 78,8% di italiani pensano che il volontariato sia una cosa buona. L'Anteas è volontariato e attraverso i suoi servizi alla persona contribuisce a creare comunità solidali, favorisce rapporti, aggregazioni e reti che accrescono il capitale sociale e il bene comune. Leggo queste cose che poi, se volete prendere un pezzettino per la mozione, ci possono stare, se poi non è prevista. L'altra volta avevamo scritto che, scusate, nel 2013, noi eravamo un po' più in là, no? È necessario rilanciare l'azione dell'Anteas regionale, chiarendo meglio le sue funzioni, gli obiettivi, la struttura organizzativa e le fonti di finanziamento. Dobbiamo ancora capire bene la finalizzazione del prelievo 5% più 5% del 5 per 1000. Poi se io prendo Rosaria la volontaria e Mario il volontario posso capire, però mi pare che a livello nazionale si possa forse fare qualche cosettina di più a livello di Anteas. Abbiamo qualche preoccupazione in periferia per l'impianto della riforma del terzo settore. Bobba è un piemontese, le priache non ce l'hanno ancora proprio spiegata bene, sai Loreno, questo terzo, il forum del te dice che va tutto bene, noi qualche preoccupazione sulla distinzione tra il volontariato puro e gli enti e no profit che magari hanno dipendenti, cioè lì bisogna capire molto bene di questo il discorso del servizio civile, ottimo, il primo decreto applicativo, ottimo. Ma oggi non c'è tempo per sviscerare il problema. Visto che qui sia Emilio ha cominciato dicendo Rinascimento, Medioevo, poi Scarsi oggi, Scarsi ha fatto il liceo scientifico a Novi Ligure, cavolo, c'è manca di... Però poi il Cavone ha detto fermati lì, parlaci delle tariffe del campo, invece di andare avanti con Ciano di fronte. Però io devo dirvi che inizialmente ho avuto qualche perplessità nel vedere lo slogan e l'immagine. Mi sembrava, sarà qualcosa di retro, qualcosa di antico. Mi sono ricreduto e ho avuto uno stimolo in questa scelta del nazionale di parlare di Rinascimento. Non è tanto perché siamo dopo il Medioevo, no? E poi qui, adesso senza fare lezioni, Emilio, è chiaro che l'umanesimo nasce ancora prima, il Petrà è un movimento letterario, il Rinascimento viene dopo, è un'interpretazione, è uno sviluppo dell'umanesimo e non è una roba fiorentina, perché se pensiamo che il Rinascimento sia l'ennesima roba fiorentina, a parte i toscani qua, ragazzi, no. Questa immagine qui, ragazzi, questa è la città ideale. Questa viene da Urbino, ci sono le Marche dietro, ci sono i miei est di Ferrara, che io sono ferrarese, quindi Montefeltro, ci sono per gli Aragona di Napoli, Gonzaga di Mantova, gli Sforza di Milano. E poi ragazzi, mica è stata una roba italiana, Scarsi l'ha detto giustamente, in quel periodo tanto c'è stata la scoperta, alla fine del 4 c'era stata la scoperta dell'America. L'economia si è spostata, il baricentro dell'economia dal Mediterraneo altrove. E soprattutto, come noi diciamo che l'Europa va bene perché sono 70 anni che non ci sono guerre, c'è stato un periodo almeno di 40 anni dove di guerre non se ne sono fatte. Ci sono dei paralleli. Il Rinascimento quindi è vissuto dalla maggior parte dei suoi protagonisti come un'età di cambiamento. Maturò nel modo di concepire il mondo e se stessi, sviluppando le idee dell'umanesimo. L'uomo, la persona al centro. Mica che dobbiamo andare lontano, L'articolo 2 dello statuto, quello scritto dai padri. Cosa dice l'articolo dello statuto CISL? La Confederazione Italiana Sindacato si richiama e si ispira nella sua azione ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza a una serie organica, eccetera, eccetera, eccetera. C'è l'uomo al centro. Quindi sicuramente ci siamo, è ottimo il recupero di questo. E poi guardate, diamo un'occhiata a questa roba qua. Questa qui, dov'è? Adesso è di qua. Ah, è di qua. È di qua. La città ideale. Questa versione qui è nelle Marche. Ma ce n'è una a Baltimora, ce n'è una a Berlino. Quella di Baltimora a Berlino c'ha gli omettini, e sono contento che ci arrivate messi gli omettini, perché questo era senza uomo. Senza uomo. Importantissimo. Ci sono figure umane, l'abbiamo detto, e quindi la cosa che mi ha intrigato è che non si sa chi ha fatto questo. È un anonimo. E questo è bellissimo, dà un valore aggiunto. Qualcuno ha detto c'è Piero della Francesca, qualcuno ha detto c'è Leon Battista Alberti, Giuliano da San Gallo. Non è vero, è anonimo. E che un anonimo abbia prodotto una cosa del genere mi dà qualche suggestione. L'elemento qui dentro, non stiamo, non voglio fare una lezione, io sono un perito, cioè Scassi ha fatto il liceo classico, io ho fatto il perito elettrotecnico, quindi non mi azzardo. L'elemento comunque dentro a questo disegno c'era un concetto filosofico di utopia. Ci sono 2 minuti, ci sono. L'agire storico dell'uomo e l'unificazione di tutta la rappresentazione, se la guardiamo bene, adesso qui si sbiadisce un po', è la luce chiara e cristallina. E quindi la FNP deve riportare la stessa carica utopica all'interno della CISL. Credo che ci stiamo provando. Però mi limito a dire, non a caso oggi Rosina, mi è piaciuto da morire, ha fatto un incipit e una conclusione sullo stesso argomento. L'accorpamento delle categorie. Vuol dire che le sta sul gozzo sta roba qua. Allora vi dico, tanto per capirci, siccome ogni tanto un pensionato, forse perché sa scrivere, che ne so, lo mettono in commissione emozioni, vi ricordo, nella relazione non c'era scritta questa cosa, parlo dell'Uste, ma adesso dove è andato Sergio? Non c'è più? No, non c'è. Sergio di non ricordo. Allora, prima versione della commissione emozioni. È opportuno che si proceda con l'accorpamento delle federazioni di categoria in tempi non indeterminati. Prima versione, Alessandro Alessandriano. A un certo punto si astengono 2 categorie e 4 cominciano a dire noi la proviamo, ma... Mica che c'erano i loro nazionali, Rosina, non c'erano mica i loro nazionali. Allora cosa succede? Ha provato, poi cosa succede? Si cambia. Allora... e io ero presidente, si valuti con particolare attenzione l'ipotesi di accorpamento che nelle federazioni di categoria in tempi non indeterminati deve avvenire. Allora qui Lorenzo ti dico io una cosa, tra le varie cose bellissime organizzate da questa segreteria in concorso con l'USR, c'è stato un convegno dove Violante ha ricordato un bellissimo passaggio, c'è un libro che si chiama La cioccolata cattolica, che è di un biblista, e cosa ci racconta? Proprio che si chiama Balzarelli. Proprio in questo periodo, un po' più in là, dopo la scoperta dell'America, cosa succede? Cominciano a arrivare i semi di cacao, comincia ad arrivare la cioccolata da noi. Però voi sapete che siamo in tempo di Quaresima, vi ricordate che da ragazzi che fino a mezzanotte si poteva mangiare, poi non si poteva più mangiare, ma si poteva bere. perché il liquido, liquidum non frangit, dicevano. Ma la cioccolata è solida o è liquida? Chi lo sa? Allora c'era una discussione. I gesuiti, e Papa Francesco è un gesuita, dicevano che è liquida, la natura è fondamentale. Liquida, arrivo. Arrivo. Invece qualcuno, i domenicani dicevano è solida. Ci hanno messo 212 anni, sono passati 4 papi. Quando il Papa ha affidato, per fortuna a un gesuita, di sciogliere il dubbio, lui ha detto, la cioccolata nella sostanza, nella forma è solida, ma nella sostanza è liquida. E l'hanno risolta così. Vi ricordo che contemporaneamente i frati della Trappa si erano fatti quelle belle grappe belle solide per resistere. Allora ci metteremo 212 anni per decidere l'accorpamento delle categorie? Al nostro congresso il nostro segretario regionale ha dato un assist a Petriccioli. Gli ha detto, ma sì, l'autonomia. E Petriccioli ha fatto la schiacciata. L'autonomia delle categorie è sacra. Allora Loreno, siamo una categoria noi FDP? Sì. Siamo autonomi? Sì. Facciamolo valere anche noi. Grazie. Grazie professore.